tifo che infiamma la carne. Solo odio, sangue sopra le giacche, che finché muoio sputo sopra le tracce. Incendio, odio sopra te. Primo sentimento umano, dall'alba dei tempi c'è chi guarda strano, killer alla soprano, con gli emolienti, se gli scappano dalla mano, la metà agli enti, perché la testa dell'uomo mondana chiuso i battenti, odio, penna d'inchiostro scivola, su pergamene ruvide, il gioco della morte trasmette sensazioni ludiche, la mia mente nasconde anfrate con la scaltrezza dei saggi, uccide con tecniche shuriken, odio, peccato capitale, peccato capitale, in un piccolo con uno che ti vuole male, con qualche sbaglio referenziale, che con una lama in mano preferirebbe vederti bimolecolare. Odio, amore inverso, sarebbe giusto nel mondo all'inverso, dove si scrive col ferro e si ammazza col gesso. Se succedesse tutto questo, benvenuti, sareste nel mondo in cui io sono adesso. Solo odio, il fuoco infiamma la carne. Solo odio, sangue sopra le giacche, che finché muoio sputo sopra le tracce. Incendio, odio sopra te. Il fuoco infiamma la carne. Solo odio, sangue sopra le giacche, che finché muoio sputo sopra le tracce. Incendio, odio sopra te. Il mondo accoglie chiunque, anche spazzatura, e se vivo in questo mondo ho imparato la tortura. Non dura, il più debole si sfigura, il più forte fa bella figura, è un'avventura. La società mi evita da spazzatino, se lo merita, e pulisce facce con la carta igienica. Gli attori di un reality cambiano identità, sotto gli occhi di una steadicam perdono autenticità. Odio la falsità che ogni giorno aumenta, chi la predilige e chi la fomenta. Rispetto la ragione anche se spaventa, se ad avercela è una persona che a parlare lenta. Aspettative no aspetta, odio chi ti lascia un bivio, man ti lascia una scelta, vedere le stesse facce di merda o cambiare in fretta e modellarle come creta. Solo odio, il fuoco infiamma la carne. Solo odio, sangue sopra le giacche, che finché muoio sputo sopra le tracce. Incendio, odio sopra te. Solo odio, il fuoco infiamma la carne. Solo odio, sangue sopra le giacche, che finché muoio sputo sopra le tracce. Incendio, odio sopra te. Un nuovo giorno, un nuovo gioco, una nuova vita. Occhi bassi, denti striduri e bocca che ringhia. È l'odio che provo per la gente, non sente, fottene niente, rabbia tangente. Sono impulsi, battiti del cuore in accelerazione. È una percezione, una congiunzione. Odio, amore, formano rancore delle persone per sole. Memorie di valore, ore in azione per precludere un mondo lucubre. Eliminare chi odia le razze come Rosenberg. Amo la musica, odio lo snob. La sua tunica, l'unica credenza è credere a ciò che si vede. Mandare a puttane la politica come mele. Le frasi sono nel beat, se la vita è un film io la odio, e ne son regista come Kassovitz. Solo odio, il fuoco infiamma la carne. Solo odio, sangue sopra le giacche, che finché muoio sputo sopra le tracce. Incendio, odio sopra te. La fine del...